Letture antifasciste. Serena legge L'Agnese va a morire, Renata Viganò. Una donna disse: «Certo che non sono cattivi. Se non ci fossero dei delinquenti che li tormentano loro con noi, sarebbero buoni e cortesi». Era alta, magra, con gli occhiali, un aspetto senza luce, di legno smorto. L'Agnese le stava proprio a fianco, la fissava. Lei si volse mentre diceva: «Non bisogna dimenticare che noi li abbiamo traditi». Si trovò sul viso il peso vivo di quegli occhi. Si interruppe. «Niente», disse l'Agnese, «dica pure, volevo solo vederla in faccia». Ma la donna non infilava più il resto del discorso. Guardò in giro, irresoluta. Il vecchio che parlava prima si fece avanti, domandò arrogante: «Voi chi siete?» «Io sono una che passava, e i tedeschi mi hanno presa e portato qui per le loro sporche faccende», rispose l'Agnese. «Porci, e voi più di loro, a dire che sono buoni e gentili». Si udì un mormorio sordo, voci anonime dal gruppo, dagli angoli, dai muri. «Ha ragione, è vero, sono porci, accidenti alla guerra, che scoppino loro, i fascisti e chi gli vuole bene». La donna magra si levò gli occhiali, guardò l'Agnese con gli occhi nudi, incantati, senza ciglia. «Pensate come volete», disse, «ma qui i tedeschi sono stati buoni». L'Agnese le andò vicino con la faccia. «E sono stati buoni quando hanno bruciato X e fucilato quei 10 a F e gli altri che hanno ammazzato? E se adesso ci mitragliassero tutti?» La donna magra indietreggiò. «Non farebbero niente se i ribelli li lasciassero in pace», disse, ma la voce era più bassa, tremava. Alla parola «ribelli» l'Agnese vide tutti i visi lontani, i visi perduti. Il comandante, Clinton, Tarzan, Tom, Zero, il Giglio, il Cino, gli stranieri, Walter, la disperata, 500. Li rivide tutti in una volta, compagni, combattenti, partigiani, non ribelli. Fece ancora due passi verso la donna, ormai la serrava contro il muro. Non poteva andare più in là, le cadeva quasi addosso con le sue grandi mani buone da schiaffi. In tutto lo stanzone il mormorio sordo ricominciò. Vicino alla donna magra un uomo s'alzò dalla paglia. «Agnese di Palita!» Si mise un dito di traverso sulla bocca. L'Agnese disse «sì», anche con la testa. Si allontanò subito dalla donna, concluse fregando una contro l'altra le sue palme dure. «I ribelli muoiono per gli imbecilli». Le fecero largo. Lei camminò fra due file umane di stupore, prigioniera di tutti quegli occhi attenti. Si volse, disse più forte, con severità: «Ma quelli che restano, anche con gli imbecilli faranno i conti. Siamo vicini alla paga appena verrà la buona stagione. Ai tedeschi e ai fascisti non gli rimane più niente». Il suono ruvido del suo dialetto s'allargava nel silenzio. Disse ancora: «Mi sono sbagliata, gli rimane la paura». Come redazione di Vallun, composta da storici e storiche, non possiamo che andare alla ricerca della nostra lettura antifascista fra carte d'archivio e biblioteche. È il 1921 quando l'editore bolognese Licinio Cappelli pubblica una serie di libri che oggi definiremo degli instant book, argomento il nascente e sempre più pericoloso movimento fascista. Fra questi ce n'è uno che possiamo dire che è il più riuscito e il più capace di cogliere, già allora, il carattere intrinseco del fascismo. Si tratta di La controrivoluzione preventiva, riflessione sul fascismo. L'autore è Luigi Fabbri, il maestro delle scuole elementari di Corticella, che però è anche uno storico militante e pubblicista anarchico. Luigi Fabbri poi sarà fra i docenti che nel 25 rifiuteranno il giuramento di fedeltà al regime. E nella controrivoluzione preventiva, riflessione sul fascismo, che è stato repubblicato nel 2009 da Zero in Condotta a cura dell'Assemblea Antifascista Permanente di Bologna, leggiamo queste belle parole. C'è una corrispondenza d'amorosi sensi tra fascismo e classi dirigenti. Il fascismo, infatti, non è un fenomeno a sé, avulso dall'insieme delle altre ingiustizie sociali, ma una diretta conseguenza ed emanazione di queste, che anzi, il vero responsabile della guerriglia civile instaurata dal fascismo è proprio il regime politico ed economico attuale. La responsabilità di questo è in realtà assai maggiore della responsabilità dei fascisti presi separatamente, e tale responsabilità del regime è tanto più grave e delittuosa in quanto la guerriglia fascista, se nuoce alle persone per il sangue, i dolori e le distruzioni che costa, se rende la lotta di classe più aspra e più livida di odio, è perfettamente inutile agli scopi di conservazione sociale e di restaurazione nazionale che stupidamente alcuni reazionari dei più ciechi se ne ripromettono. Anzi, più che inutile, il fascismo è nocivo, come nuoce ad ogni causa qualsiasi mezzo sproporzionato, che costa più assai di quel che rende. Ma sarebbe lo stesso ingenuità per i rivoluzionari il chiedere al capitalismo e allo Stato contro il fascismo delle misure repressive, che potrebbero, sotto ad altro aspetto, produrre altri effetti nocivi. Ed i rivoluzionari non possono né debbono chiedere per alcuno arresti e condanne, manette e prigioni. In realtà i rivoluzionari, i socialisti, gli operai vedranno cessare la complicità governativa e capitalista col fascismo sol quando essi stessi troveranno in sé la forza della resistenza, non sporadica e saltuaria, più o meno individuale o di gruppo e troppo localizzata, ma generale. I tedeschi stavano intorno ai fuochi delle cucine, scherzavano con le ragazze, si ubriacavano e dormivano. Non sapevano che fra quegli uomini e quelle donne, molti, quasi tutti, erano partigiani. Staffette inviate con un ordine nascosto nelle scarpe, dirigenti che andavano alle riunioni nelle stalle dei contadini, capi che preparavano l'azione dove nessuno l'aspettava. La forza della resistenza era questa: essere dappertutto, camminare in mezzo ai nemici, nascondersi nelle figure più scialbe e pacifiche, un fuoco senza fiamma né fumo, un fuoco senza segno. I tedeschi e i fascisti ci mettevano i piedi sopra, se ne accorgevano quando si bruciavano. I partigiani, i loro capi, i loro servizi indispensabili, i loro movimenti di truppa, tutta la vasta organizzazione di un esercito, erano lì, nel territorio, nella zona, vicini, lontani, sfuggivano al controllo con la lievità di una presenza invisibile. C'erano e non si conosceva il luogo, comparivano e scomparivano come ombre, ma ombre col fucile carico, col mitra che sparava. Ogni uomo, ogni donna poteva essere un partigiano, poteva non esserlo. Questa era la forza della resistenza. Dall'Agnese va a morire, Alice e Massimo. Lettura di Enrico Tabellini. Il mattino del 12 ottobre 1926, Tullini si recava al lavoro. Aveva un sacco di cose da sbrigare, come sempre. «C'è una lettera per te», gli dissero. Sbirciò la busta sul suo tavolo e notò subito che era indirizzata personalmente a Tullini Giuseppe presso l'Union des Coopératives e perciò gli era stata recapitata. La afferrò con diffidenza, era piuttosto grossa, forse conteneva dei documenti. Il mittente era un certo Maurice Bern, uno sconosciuto per lui, e il francobollo era svizzero. Uscì dalla palazzina degli uffici e si allontanò verso una delle grandi cisterne. Quando fu certo di essere solo, aprì la busta e andò subito a cercare la firma. Era di Franco Varini. «Caro compagno Tullini, non preoccuparti, questa lettera ti arriva direttamente da un corriere diplomatico assolutamente sicuro. Ho preso l'incarico di scrivere a te e ad altri 7 compagni che si trovano nelle tue stesse condizioni. Ti chiamo compagno con commozione. Qui da noi questa parola è pericolosa e chi la pronuncia ad alta voce si procura solo guai. Io non lavoro più al sindacato, da più di un anno sono impiegato in una ditta di laterizi in via del Borgo. Nel mese di aprile il capo del governo ha abolito il diritto di sciopero, ma si tratta di una pura formalità, perché oggi non è possibile possibile organizzare nemmeno una riunione di lavoratori. Nelle campagne le leghe non hanno retto agli attacchi e alle violenze e sono state sopraffatte e disgregate. In alcuni casi sono perfino passate dall'altra parte. È cominciato quando tu eri ancora in Italia, ma ora gli industriali e gli agrari hanno stretto un patto di ferro con i sindacati fascisti e la contrattazione è nelle loro mani. L'attentato a Mussolini è diventato un pretesto per limitare o annullare qualsiasi libertà, ammesso che ne fossero rimaste, e i controlli sono sempre più severi. Riusciamo a tenere ancora qualche collegamento personale, ma la paura sta prevalendo su tutto, e se continua così, fra qualche tempo non avremo forse neppure il coraggio di salutarci per strada. Ci vorrebbe un'organizzazione clandestina di collegamenti, ma l'iniziativa ormai non può più partire da qui. Occorre creare dei centri all'estero. Ti ripeto, qui la paura aumenta ogni giorno, anche fra compagni fedeli. Siamo tutti isolati. Viviamo ormai in una dittatura e bisogna esserci dentro per capire quanto sia rischioso darsi da fare. Qualche notizia però riusciamo ancora a raccoglierla. Sappiamo con certezza che 8 compagni, te compreso, non risultano schedati fra i fuoriusciti politici. Non esistono fascicoli sul vostro conto e quindi riteniamo opportuno farvelo sapere. Siete emigranti normali. Sappiamo anche che la nostra polizia sta creando all'estero, specialmente in Francia, una folta rete di informatori che hanno l'incarico di inserirsi anche nei circoli antifascisti. Fra non molto sapranno tutto di tutti, ma in questi anni molta gente delle nostre campagne è andata a cercare lavoro all'estero e quindi se qualcuno rientra per ora non è sottoposto a speciali controlli. Insomma, potresti tornare in Italia senza problemi, ma sia ben chiaro che io non ti spingo a rientrare, ti informo solo che non ci sono pendenze e denunce a tuo carico e che non rischieresti di essere arrestato. Se hai un buon lavoro, se non ti senti di sopportare la dittatura del fascismo, fai bene a restare in Francia. È ovvio però che non puoi rimettere piede a Mulinella. Nei paesi i rapporti sono molto più stretti e quindi saresti facile vittima delle prepotenze di chi comanda. Puoi venire a Bologna, la città si sta ingrandendo ed è facile disperdersi. Ma consentimi per un momento di parlarti dei tuoi compagni di Mulinella, perché quello che è successo dopo la tua partenza ha dell'incredibile. Tra gennaio e l'agosto del 1923 nel Mulinellese sono state bastonate quasi 300 persone. Me lo disse Aldino Ungarelli, il mezzadro, che tenne il conto scrupolosamente aggiornato con tanto di nomi fino al 21 agosto del 23, quando anche lui fu bastonato con tutta la famiglia e cacciato dal fondo senza preavviso. Mettici anche 5 omicidi, gli sfratti dei poderi, il licenziamento degli operai della bonifica, il nero fumo e l'olio di ricino propinati in grande abbondanza. I fascisti del paese hanno preso possesso di tutto e hanno fatto terra bruciata. Dopo agosto non si è più tenuto il conto, ma le violenze sono continuate con lo stesso ritmo. Tutti si aspettavano il crollo, la fine, ma invece i tuoi paesani non hanno ceduto. Se qualcuno veniva rimosso, c'era subito chi subentrava e il nucleo rimaneva compatto. Mulinella resisteva, non si sa come, ma non si piegava. Nel 1924 ci furono le elezioni e tutti i seggi erano controllati dai fascisti e la gente era obbligata con la violenza ad andare a votare e il voto era controllato. Ammazzarono a bastonate Angelo Gaiani perché dichiarò pubblicamente che avrebbe votato per i socialisti. Nonostante questo ci furono più di 150 voti contrari. Poi in agosto bastonarono un numero incredibile di donne perché andavano a spigolare senza la tessera del sindacato fascista. In settembre i compagni tennero una riunione segreta di notte nei canneti della palude e parteciparono quasi 1000 persone, tutte sfuggite al controllo dei fascisti. Chi è stato presente mi ha detto che facevano venire in mente le riunioni degli antichi cristiani nelle catacombe. Votarono una mozione che chiedeva la fine delle violenze e il ritorno alla libertà. 4 compagni cominciarono poi a raccogliere le iscrizioni ad un nuovo libero sindacato e ne racimolarono 1000, contando di quote. A partire da novembre furono arrestate più di 100 persone, compresi 4. Non so dirti cosa sia successo nel 25 perché ho perduto i contatti, ma di certo hanno continuato a battersi perché ho saputo in questi giorni che le autorità fasciste hanno disposto il trasferimento coatto di tutte le famiglie dissidenti. L'operazione è iniziata da qualche mese ed è ancora in corso. Arriva un camion, in fretta e furia carica robe e persone e via da Mulinella. Molti sono stati sbarcati a Bologna al deposito del sale della finanza in attesa di una sistemazione, ma diverse famiglie sono state mandate anche a Marzabotto e un gruppo perfino a Torino. Si parla di più di 600 persone. Così hanno risolto il problema di Molinella. Puoi essere orgoglioso dei tuoi compagni. Tullini aveva gli occhi lucidi e dovette per un momento interrompere la lettura perché non riusciva a distinguere le righe. Ah, ho anche notizie di Bentivogli. So con certezza che sarà mandato al confino di polizia. È ricercato e prima o poi lo troveranno e lo spediranno in un'isola sperduta. Il confino è stato deciso anche per Fabbri e Schiassi e altri certamente li seguiranno. Se per caso arrivi a Bologna, puoi fare il riferimento con la massima prudenza a Nazareno Brunelli. Abita in Via Rialto, ha messo su un'attività cartotecnica. Non prendere contatto con tua madre, penseranno i compagni ad avvertirla. Se ti è dati a fare il facchino, c'è modo di trovarti un posto allo zuccherificio. Non so se avremo occasione di rivederci. Io ti ho raccontato come stanno le cose, ma ora la decisione tocca soltanto a te. Un saluto dal compagno, Franco Varini. Rimase a lungo con la lettera a Penzoloni. Aveva le lacrime agli occhi e si sentiva crescere dentro una rabbia furibonda e impotente. Si poteva dunque tornare in Italia, ma a patto di chinare la testa, arrendersi, imparare a stare zitti. Oppure finire al confino come Bentivogli, come Fabbri, come tanti altri, o peggio ancora in galera. In fondo, lui era libero, libero di rimanere in Francia, di far arrivare la famiglia e tagliare il filo per sempre. Il fascismo aveva vinto, quello che avvertiva e temeva da tempo era confermato brutalmente nella lettera. Doveva riflettere, doveva meditare, quei fogli gli pesavano tremendamente fra le mani, ma nel momento stesso in cui aveva cominciato a leggerli, la decisione di ritornare era già stata presa. Giorgio Festi, Storia di un birocciaio di Molinella, Pendragon 2001. Odio gli indifferenti, di Antonio Gramsci. Odio gli indifferenti, odio gli indifferenti. Credo come Federico Ebel che vivere vuol dire essere partigiani. Non possono esistere solamente uomini, gli estranei alla città. Chi vive veramente non può non essere cittadino e parteggiare. Indifferenza e aburia, e parassitismo, e vigliaccheria, non è vita. Perciò odio gli indifferenti. L'indifferenza è il peso morto della storia, è la palla di piombo per il novatore, è la materia inerte in cui affogano spesso gli entusiasmi più splendenti, è la palude che recinge la vecchia città e la difende meglio delle mura più salde, meglio dei petti dei suoi guerrieri, perché inghiottisce nei suoi gorghi limosi gli assalitori e li decima e li scora e qualche volta li fa desistere dall'impresa eroica. L'indifferenza opera potentemente nella storia. Opera passivamente, ma opera, è la fatalità, è ciò su cui noi non si può contare. È ciò che sconvolge i programmi, che rovesce i piani meglio costruiti, è la materia bruta che si ribella all'intelligenza e la strozza. Ciò che succede, il male che si abbatte su tutti, il possibile bene che un atto eroico di valore universale può generare, non è tanto dovuto all'iniziativa dei pochi che operano, quanto all'indifferenza, all'assenteismo dei molti. Ciò che avviene non avviene tanto perché alcuni vogliono che avvenga, quanto perché la massa degli uomini abdica alla sua volontà, lascia fare, lascia aggruppare i nodi che poi solo la spada potrà tagliare, lascia promulgare leggi che poi solo la rivolta farà abrogare, lascia salire al potere gli uomini che poi solo un ammutinamento potrà rovesciare. La fatalità che sembra dominare la storia non è altro appunto che apparenza illusoria di questa indifferenza, di questo assenteismo. Dei fatti maturano nell'ombra. Poche mani, non sorvegliate da nessun controllo, tessono la tela della vita collettiva. E la massa ignora, perché non se ne preoccupa. I destini di un'epoca sono manipolati a seconda delle visioni ristrette, degli scopi immediati, delle ambizioni, e passionali personali di piccoli gruppi attivi. E la massa degli uomini ignora, perché non se ne preoccupa. Ma i fatti che hanno maturato vengono a sfociare. Ma la tela tessuta nell'ombra arriva a compimento. E allora sembra sia la fatalità a travolgere tutto e tutti, sembra che la storia non sia che un enorme fenomeno naturale, un'eruzione, un terremoto del quale rimangono vittima tutti, chi ha voluto e chi non ha voluto, chi sapeva e chi non sapeva, chi era stato attivo e chi indifferente. E questo ultimo si irrita, vorrebbe sottrarsi alle conseguenze, vorrebbe apparisse chiaro che egli non ha voluto, che egli non è responsabile. Alcuni piagnucolano pietosamente, altri bestemmiano oscenatamente, ma nessuno, pochi si domandano: e se avessi anch'io fatto il mio dovere? Se avessi cercato di far valere la mia volontà e il mio consiglio, sarebbe successo ciò che è successo? Ma nessuno o pochi si fanno una colpa della loro indifferenza, del loro scetticismo, del loro non aver dato il loro baraccio e la loro attività a quei gruppi di cittadini che, appunto, per evitare quel tal male, combattevano, di procurare quel tal bene, si proponevano. I più di costoro, invece, ad avvenimenti compiuti, preferiscono parlare di fallimenti ideali, di programmi definitivamente crollati e di altre simili piacevolezze. Ricominciano così la loro assenza da ogni responsabilità e non già che non vedano chiaro nelle cose e che qualche volta non siano capaci di prospettare bellissime soluzioni dei problemi più urgenti e di quelli che, pur richiedendo ampia preparazione e tempo, sono tuttavia altrettanto urgenti. Ma queste soluzioni rimangono bellissime, infeconde, ma questo contributo alla vita collettiva non è animato da alcuna luce morale, è prodotto di curiosità intellettuale, non di pungente senso di una responsabilità storica che vuole tutti attivi nella vita, che non ammette agnosticismi e indifferenze di nessun genere. Odio gli indifferenti, anche per ciò che mi dà noia il loro piagnisteo di eterni innocenti. Domando conto a ognuno di essi del come ha svolto il compito che la vita gli ha posto e gli pone quotidianamente, di ciò che ha fatto e specialmente di ciò che non ha fatto. E sento di poter essere inesorabile, di non dover sprecare la mia pietà, di non dover spartire con loro le mie lacrime. Sono partigiano, vivo e sento nelle coscienze virili della mia parte già pulsare l'attività della città futura che la mia parte sta costruendo. E in essa la catena sociale non pesa sui pochi. In essa ogni cosa che succede non è dovuta al caso, alla fatalità, ma è intelligente opera dei cittadini. Non c'è in essa nessuna che stia alla finestra a guardare mentre i pochi si sacrificano, si svenano nel sacrificio. E colui che sta alla finestra, in agguato, voglia usufruire del poco bene che l'attività di pochi procura e sfoghi la sua delusione vituperando il sacrificato, lo svenato, perché non è riuscito nel suo intento. Vivo, sono partigiano, perciò odio chi non parteggia, odio gli indifferenti. La lettura di Massimo Vitali. Allora, per la prima volta ci siamo accorti che la nostra lingua manca di parole per esprimere questa offesa, la demolizione di un uomo. In un attimo, con intuizioni quasi profetica, la realtà ci si è rivelata. Siamo arrivati al fondo. Più giù di così non si può andare. Condizione umana più misera non c'è e non è pensabile. Nulla più è nostro. Ci hanno tolto gli abiti, le scarpe, anche i capelli. Se parleremo non ci ascolteranno e se ci ascoltassero non ci capirebbero. Ci toglieranno anche il nome e se vorremmo conservarlo dovremmo trovare in noi la forza di farlo, di far sì che dietro al nome qualcosa ancora di noi quali eravamo, rimanga. Noi sappiamo che in questo difficilmente saremo compresi ed è bene che sia così, ma consideri ognuno quanto valore, quanto significato è racchiuso anche nelle più piccole nostre abitudini quotidiane, nei 100 oggetti nostri che il più umile mendicante possiede. Un fazzoletto, una vecchia lettera, la fotografia di una persona cara. Queste cose sono parte di noi, quasi come membra del nostro corpo. Né è pensabile di venirne privati nel nostro mondo, che subito ne ritroveremo altri a sostituire i vecchi, altri oggetti che sono nostri in quanto custodi e suscitatori di memorie nostre. Si immagini ora un uomo a cui, insieme con le persone amate, vengono tolti la sua casa, le sue abitudini, i suoi abiti, tutto infine, letteralmente, tutto quanto possiede. Sarà un uomo vuoto, ridotto a sofferenza e bisogno, dimentico di dignità e discernimento, poiché accade facilmente a chi ha perso tutto di perdere se stesso. Tale quindi che si potrà a cuor leggero decidere della sua vita o morte, al di fuori di ogni senso di affinità umana. Nel caso più fortunato, in base a un puro giudizio di utilità. Si comprenderà allora il duplice significato del termine campo di annientamento. E sarà chiaro cosa intendiamo esprimere con questa frase. Giacere sul fondo. Se questo è un uomo, Primo Levi.